Genio, Genio, non so se mi ascolti. Ci sei, ci sei? Ma che sono questi, ma è vero, come davvero? Senta, no. Poi sto preso, ma questo va. Non si è capito niente, cos'è? Dammi un controllo segnale, se potete viaggiare. 9-10 abbondante. Zona? La solita mia zona, Sassari Basso. Benissimo, grazie, ciao. Grazie. Avanti, ora la cipolla. Anto, tu sei? Sì. No, fa un passaggio. Già sta arrivando. Chi è che vuole entrare? Avanti. E allora, Anto, che si dice? Sono uguale. Aspetta, l'altro c'è l'altro. Bene. Ma non c'è nessun altro? No. Aspetta. Ehi! Ecco! Non fai mai scandale, sono tu! Ma tu no! Oh, cappa! Vabbè, no, siamo io e tu, tu e io! Va bene! Claudio, ci sei in ascolto? Cazzo, stai arrivando a 9 adesso, cosa hai fatto, Antu? Chi è che vuole entrare? Avanti! Hai fatto la 6 a 9! Aspetta, fai la modulazione, dura. Fai un altro passaggio più lungo, Anto, così ti ascolto meglio. Io non posso mai con sollevata, abbassata, fatta, non so, prova a abbassare appena. Prova a abbassare appena. Un pelino, non c'è una via di mezzo? Sì, questa è una via di mezzo. Va bene così, allora. Bene. Adesso si vede. Adesso sei a 9. Bene, bene. Era ora, c'era un segnale degno. Non era la 48. Già si sente. Oh, fa un altro passaggio, Anto, a vedere. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. No, va bene, se parli a bassa voce, cioè, tornare, va bene. No, mi stavo provando, ho detto più 4, infatti, volevo solo vedere se la tava, se era una porcheria. La funge, abbassa leggermente adesso, Antu. Ecco, un po' così, questa volta non è il DM, la regolazione del microfono, no? Non posso toccare un attimo della parte. Va bene, va bene. Andare. Non c'è Claudio, se no volevo sentire anche lui. Non è che sta facendo la pennichella. Gala, gala. Questa è radio, lei. Dopo un po' che fai un po' di passaggi, lasci le regolazioni, vedi la mia, e poi inizia a innescare. Vedete che male si riscalda un po' e quello fa qualcosa, cambiano le cadenze, l'elettronica è un mistero per il misterioso. E si conferma. Adesso devo staccare la cassa esterna perché sennò faccio va ritorno e iniziamo a fischiare a tutte le parti, devo passare il mic gain. Già è buona, sì? Sì, sì, la radio è buona. Sono sicurissima. Chiava, chiava, non è complessa, no? No, io ti sto guardando, poi ripeto, è sempre la riflessione di chi ti ascolta e con cosa ti ascolta. È dalle orecchie che ti ascolta. Ascolta, ma la prendo la realtà però la stessa, la mia. No. Zero. Bene. Vabbè, se c'è stata quella porta appresso, ma la... Quello si porta appresso le cose, ci sono a 10 metri da dove stai modulando. E io non voglio aspettare una piccola mia di fare fronte a me. E così, te lo regalo lì, che non ti so tanto. Prova, prova a metterlo lì a vedere la succedere, tu. Ma va lì, qua. Ma mi detto la gioventù. Quanto Gianni si è sentito? Doppio rondo. Neanche lui. Gianni sicuramente, guarda. Quello la pellicola se la sta facendo. Sì, vabbè, va, cazzo, così si è meglio. Devi capire, adesso inizia le belle giornate. Col caldo. Ti fai la pennichella e ti svegli al fresco. Ah, perché non lavora. Perché col caldo sto lavorando. E al fresco pure. Sabato la domenica. Facciamo tanto la domenica pure al fresco. O sotto al sole. Certo, c'è ancora un pezzo di campanella pure dall'erba. Figurati un po'. Un altro tremendo. Approfitta lei prima che arrivi il caldo e poi un casino. Sì, io ho fatto un po' di ore la previsione fa. Non è stato un pezzo, però sì. Volevo farlo la settimana scorsa, ma era una serata brutta, fresca, ventosa, infatti, ma lo faccio la domenica. Il giorno di domenica non si scatena un vibraggio o l'apocalisse. Ma ha letto delle previsioni meteo o no? Stiamo andando verso tempo stabile, dai. E allora ce ne andiamo al mare, ci vado che... Ma dov'è? Fronte strada? No, quella fronte strada l'ho già tolta. Ho fatto tutti i confini, no? Tutti i muri intorno ai confini della strada. La fronte strada, fianco strada, dietro strada. Adesso mi è rimasto un pezzo che sono molto all'interno, un po' all'interno, dove c'è l'olivetta, ma è anche quello. Perché se passano i controlli poi rompono le palle, capito? Non so, di quanti gli anni, non so se passavano, lasciavano sempre l'avviso, come già detto, c'è una foto da cazzo che c'è all'erba. Si iniziano a gironzolare, a fare i controlli. Meno male, dai. Sì, devo bruciare ancora delle cose fine, infatti devo fare 70% non per essere bruciare, anzi in teoria non si può più bruciare. No, perché da qualche giorno è già iniziata la campagna di incendi. Sì, vabbè, la sono attambulata, la pulimento la bruciare, sono attambulata. Ah, se così sì. La fai, cioè, è circoscritto, non posso chiuso, sì. Sì, c'è una di quelle tabulane grandi, piano piano accendo, c'è la bici, intanto è frasca, niente, non ha. Ah, va, tutto più, vedono fumo e si avvicinano. Vabbè, ci facciamo due tiri. Magari smalla. Allora, io dopo lascio la mano, un cavo, a tirare dentro la tabulana. Ah, tipo così nel... per quello fai raffreddore. Invece della merda, ti mette lo smarino. E vi sono felici e contenti. Che rompimento, va. Cioè, sempre a casa, dove ti giri, ti giri. Non dirlo a me. Già neanche io ho roba da fare ancora. Tappa gli occhi. Qualcosa sì, qualcosa no. Cavaliere Rosmetro. E va bene, va bene. Stavo guardando poco fa sul subito. Questi annunci, no? Ma come fa a prendere un aeromotore per 350 euro? Ehi, 350, ora ne trovi anche la 500. Buona. Si fanno pagare il nome di chi l'ha fatto, capito? E cercare di farsi recuperare i soldi. Infatti la stanno vedendo un po' troppo. Quello sì. Io ogni tanto già mi riguardo i video su YouTube. Cacchio, mettono di tutto e di più dentro questa radio. E che secondo me si fermano perché non ci sta più nulla. Perché se no avrebbero messo ancora altra roba in aggiunta. Allora, ma adesso io sono una cosa allucinata, di cui la sintetizzare non vuoi praticamente nulla. Cosa santo? Adesso che tu sintetizzi dentro, non c'è praticamente niente, ci sono giusto due schedine così, ma niente di eccezionale. Mi allucami. È così, Antu, ci sono, la scheda, ecco, è Roger Beep, la scheda dei canali, tutto il resto usi le manopole, quando li metti il doppio modulatore li cambi finali, boh, finito. E tu li cambi la fontanina, dopo l'illuminazione cosa la vabbè, quelle sono fesserie alla fine, ma roba di concreta, a fin fine non ce n'è, c'è poca roba. Avanti, Lugarie. Sembra in FM adesso, Lu. Buttacelo via! Dove devo andare? Sul 50. Prova ancora, vedi cosa succede. Che cosa provo? Scusami. Andare al 50, ci puoi salire. E Luca dice al 50 si sente bene. 50? E che frequenza è il 50? 50 nella banda E. Praticamente sarebbe l'1,455, 555. E beh, dollaro. Ciao, sto facendo cosa, continua. Lu. 525. Appa, 525, come ha detto Giulio. Vai, Anto, 525. Buona tarde, io al personale, buona tarde, saluto cordiale qui della Codice di Malaga, Gaggi. Avanti dal sud della Spagna, avanti, avanti. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito. Qua isola Sarda, Sardegna, nord-ovest, Sassari, ok? Cambio. Attenzione, canale 10, cambio. C'è qualcuno sul binario 10, cambio. Eccoci qua. Eccoci, eccoci. Pronto, pronto, pronto. Qualcuno? Doppio numero, non so se si stava andando via o si è spostato da qualche altra parte. No, ha fatto tutto questa cosa. Ah, gappa, gappa. A provare l'elicottero, dai. Ciao, ciao. Buonas tardes, mio hermano. Buonas tardes, tio. Che passa? L'ombra, è all'ombra. Siete tornati alla base? No. Sto base, una posizione. Cosa tu? Ma in campagna sì? No, già, perché? Va. Vivi bene, con l'antenna la stai usando, quella che avevi piazzato? No, qua non ho piazzato niente, non ho piazzato niente. Ruccio, ruccio c'hai? Sì, ruccio, bravo, tutto è ruccio. Sì, ruccio, c'hai la testa, c'hai. un manganello di Santenna. Cazzo, ma davvero, io sono elettrica, me era lo stesso modo. Un manganello, esatto, perché ti chiedi di casa a fare, che usano gli americani per spostare gli indiani. Eia, e che le chiese anche la polizia. Il tonfa. Sì, no, per il... Puta, ce l'ho chiamato lì in un locale che c'ha l'ore sole. Siamo arrivati con l'ambulanza, anche se c'è la polizia, e quello di anche più manganello, la gente sfregiata in faccia, hanno sfregiato il barista, ogni casino che hanno fatto, una greffa. Vabbè, vado un attimino a aprire la porta e c'è Gemma. Boh, io sapevo che si chiamava il tonfa. Mi sono sempre qua, ehi, lascio che c'è gente, va. Ehi, ciao già. Ho detto che io, il manganello, quello, insomma, quello che usano lo conosco come il tonfa. No, io invece no. Non sapevo neanche che avesse un nome particolare, la verità. Mi ricordo quel nome, quel nome lì. Non ne conosco altri. No, sapevo che avessi. Se ti vuoi dire che sì, ho ragione, no, è stato una verità. Vabbè, già. L'importante è che non ci arrivi a testa, è a voi. Questa cosa è una cosa di questa, di Napoli. Cazzo, non sono cose belle, dai. No, no. Meglio evitare. Guardiamo un po' con gli occhi. Guarda, sotto casa, adesso non mi ricordo, due anni fa forse, l'anno scorso, due anni fa, praticamente erano saliti degli ultra del Cagliari a guardare praticamente la partita Cagliari-Sosso. Praticamente è successo un casino, sono fermati qua davanti alla stazione, cazzo, è successo di tutto. Abbastanza. Praticamente poi sai, si è sparsa la voce, e niente, sono arrivate le forze dell'ordine, tenuto antisommossa, gli ultra del Cagliari gli hanno chiuso dentro la stazione, e fuori era praticamente cazzo una scena da film, cazzo, e quindi lì di tonfa ce n'era un bel. No, vabbè, più che altro, cioè, qua sotto è, cioè, io, vabbè, colpi veri e propri non ne ho visto. Comunque, durante il tragitto so che sono successi un po' di casini. Sì, poi, vabbè, la situazione è durata un bel po', poi alla fine si sono spostati tramite convoglio con dei pullman. Sono usciti dove facevano lo scarico merci all'altezza del sottopasso Santa Maria. Sono divertiti la sera. Cazzo, un delirio qua, cioè vedere cazzo una situazione del genere dalla finestra in casa tua non è il massimo della vita. Lo immagino. Poi c'è la propagazione, cazzo, si affaccia, poi torna indietro, si affaccia, torna indietro, non è stabile. No, vabbè, ormai c'è un altro momento. Sei rimasto qualcuno un po', quindi, sono stato finito qualcuno. Boh, non lo so. E ancora? Ce ne sono uno, ce ne sono due? Non c'è nessuno. Magari Luca è rimasto sul 10 alto, lascia vedere. Tanto Luca sta chiudendo. Sta chiudendo? L'ho beccato sul 10 alto e sta chiudendo. Sì, ha. Saluto anche la fattoria di Luca, comunque lì mi fa sapere che è terminato. Sì, ha detto che già si mette in contatto con te. Già vi sentirete. Chiaramente, ha detto che già ti chiama. Bene, grazie. Io un'antenna di macchina ce l'ho, se la vuole lui, vetroresina, sarà alta 1,75. 1,75 è una cosa che non è. io la migliore che ho usato così, diciamo, fonaticamente all'avventura è stata la bomba. Quindi c'è tutto che la bomba regalata insieme al fotografo, c'è la bomba e l'apparecchio del centro, l'apparecchio del centro. K. Guarda, io questa antenna l'ho smontata tempo fa da un camper dismesso, ce l'avevo piazzata io prima che sistemassi tutte le cose e funziona benissimo, cioè arrivavo, mi sentivo anche vicino al protettore, insomma mi sentivano tutti gli altri, per cui anche se di macchina vuol dire funziona abbastanza bene. Ti sentiva addirittura a Porto Torres? Sì, Eugenio mi sentiva a Porto Torres con questa antenna basso, ma gli arrivavo. Sì, sì, con quella lì che l'ho piazzata sul palo dell'antenna della TV. Sì, Eugenio riusciva a sentirmi. Arrivavo basso basso, però già ci sentivamo. Boh, se la vuole provare gliela presta a farsi un giro, sicuramente è meglio di quella che ha. A farsi un giro a ruota? Eia. cosa ti volevo dire? Niente, l'avevo smontata questo camper e ce l'avevo piazzata, cioè ce l'avevo quest'inverno prima che cambiassi l'antenna, adesso ho rimesso la boomerang, anche quella grande, e va che è un bijou. Vabbè, sì, io rispettavo con la boomerang, quella grande, sì, mi sa che era fatta la però andava a fare la vita, quella tela di vestita di nero, no? Quella che stava per montare. K, questa che ci ho piazzato io è lunga 3,10 m. E cioè il radialino nero con lo stilo che si può calibrare a seconda della cordatura. E niente, che tu ti ricordi, il radiale va piazzato in maniera obliqua ed è consigliata un raggio, se non mi ricordo male, di 43 o 45 gradi, è vero? Sì, 45. Perché quando l'avevo piazzata ho preso come riferimento un goniometro e mi sono arrangiato con ghisso. Ah, si sì, lì la proprietà per anche di più. Loro saranno la proprietà per di più, andandolo più grande, più alto del resto, io l'avevo fatta così per tutta la famiglia. Cioè, tu dici praticamente, in buona sostanza, praticamente da 45 gradi, la posizione attuale, di fargli aprire tipo un angolo da 60. Da 45 gradi, allora, dico, se lo prendete di 45 gradi, no, perché è di angolo destro. Cioè, lui dritta e lui dritto in orizzontale. Tu, la tua postella, l'avevo portata giù, dritta. Quindi, fai 45 l'angolo retro è 90, 45 la metà, quindi scendendo, facendolo scendere, spostandolo chiaramente verso il basso, dai, per essere più semplici, 60-70 quindi dici. Vabbè, già ci siamo capiti più o meno, perché praticamente cosa succede? Guardandola praticamente di fronte, l'antenna, praticamente io sto parlando dell'antenna messa col PL verso la destra, ok? E il radiale piegato verso la sua sinistra. Esatto, e quello lì sono 90 gradi. E tu la parte di utilizzo, come ti dico io, arrivi sino a 120, perché comunque se la vedessi portare da quanto a terra, non esiste, se la via lo prendi a terra, sarebbero 180. 120, 130 gradi. No, aspetta, non ti sto seguendo. Non... Allora. O sto capendo male io. Allora, praticamente la base dell'antenna, c'è il PL sulla destra, poi c'è il forellino, il foro col bulloncino dove va attaccato il radiale, e lo pigliamo come il punto zero della base. Adesso io ho il radiale che è messo a 45 gradi sulla sua sinistra, ed è praticamente obliquo, 45, se io lo dovessi mettere perpendicolare allo stilo, o lo stilo verticale, la sto mettendo a 90 gradi il radiale, o sbaglio? No, un angolo verso sono 90 gradi, non è che sia una quadretta, se ne metto una quadretta, sono normali, ecco, l'angolo verso sono 90 gradi, è come tu e adesso la metto in antenna. Boh, vabbè, non lo so, comunque, continuo a... Forse, magari stiamo dicendo una cosa, la stessa cosa in due maniere diverse. Vabbè, tu adesso ce l'hai orizzontale rispetto al PL, il radiale. Siamo? No, negativo, è obliquo il radiale, praticamente è obliquo. Quindi l'hai portato più giù del PL? Sì, l'ho messo a 45 gradi, ho messo praticamente il goniometro alla base dell'antenna, dove c'è il bulloncino di fissaggio, dove praticamente a zero lì, ho calcolato i 45 gradi, ho messo il riferimento col pennarello e l'ho messo a 45. Ah, tu hai preso i 45 gradi dal piano zero? Praticamente dal punto più basso dell'antenna, dove c'è l'occhiello, no? Dove c'è l'occhiello dove vai filato il radiale, lì ho appoggiato il goniometro e ho calcolato i 45 gradi. No, io invece stavo facendo il calcolo dei gradi direttamente dallo stilo, capisco, tagliati lo stilo, no? E poi il radiale, con l'apertura, capisco, ti stavo facendo il calcolo dal piano centrale. Adesso ho capito, tu praticamente è come ipoteticamente il goniometro, invece di metterlo alla base dell'antenna, praticamente stai mettendo il goniometro a fianco al radiale verticale, o sbaglio? Sullo stilo è l'apertura del radiale, non c'è il goniometro, quindi se lo metti a metà dritto, sono 45 gradi, sono 90 gradi, poi scendi, 120, perché se dovessi scendere al contrario e mettere il radiale sotto plus in linea con lo stilo sarebbero 180. Sì, adesso chiaramente con questo tipo di ragionamento sì, è giusto. Ecco, vedi, stiamo praticamente, non c'eravamo capiti su, cioè non me l'ho spiegato bene io dove avevo posizionato il goniometro, capito? Sì, perché in realtà io per angolo, diciamo con quello, l'angolo che forma lo stilo in base al radiale, non avevo calcolato che tu calcolavi un piano immaginario centrale con un asse di divisione, capito? Certo, io praticamente cosa ho fatto? Ho messo l'antenna perfettamente in verticale, poi ho preso il goniometro, sono andato praticamente alla base lì dell'antenna dove c'è l'occhiello, ho messo il goniometro perfettamente orizzontale, che mi dava il piano, e poi da lì praticamente da 0, 20, 30, 40, 45 gradi e mi sono segnato praticamente il punto esatto. Il punto è quello, quella che loro considerano quanti non erano, poi l'avevo messo anche di più, che dipende veramente da come si ammassa, e poi dipende anche da tante cose, dalla distanza, dalle pareti, comunque anche la distanza dalle pareti, dai muri, conta tantissimo, anche dal conto, quindi tutte possono essere difficili. No, Antonio, la mia è libera tutta intorno, non ha ostacoli, e viaggia libera, certo, se riesco a mettere un altro pezzo di tubo già non sarebbe male. Ecco, piccolo dettaglio, quindi se io dovessi aprire l'ampiezza del radiale, mettendolo praticamente, non dico quasi perpendicolare allo stilo, allo stile verticale. Tu dici che in qualche maniera ne giova l'antenna o meno? No, in teoria secondo me è così. Una volta di però mi sono accorto che quando l'ha ruotato verso destra oppure la prendo di più mi aumentava un po' la riflessione, però le tensioni rimanevano uguali, quindi con l'accordo di antenna non penso più. Ok sì, vabbè, io una volta che ho fatto quell'installazione lì, poi non mi sono messo a smanettare così tanto, visto che come stazionario è abbastanza basso, 1.1.12 quando ci arriva, capito? Quindi l'ho lasciata così com'è. Ho capito. Bene, bene. Però bisogna lasciare così. Ok. Poi vabbè, un altro dettaglio. Lo stilo quello telescopico, quello piccolino che esce dal radiale, praticamente è tutto dentro. Sì, quello lì c'è quasi tutto dentro, io tiravo fuori tocco una puntina. Ma questa antenna qui che hai tu, l'hai presa nuova o è un'antenna recuperata? Quella di Picchiata? No, me l'ha passato Daniele, ce l'aveva lui montata prima che si mettesse l'altra antenna. No, è roba recente, Antu. Sì, dovrebbe essere della LEM quell'antenna. Ha praticamente l'affare dove c'è il coso di fissaggio in plastica sagomato, poi quasi alla base dell'antenna c'è il PL su un fianco. E poi c'è l'occhiello sotto all'estremità inferiore dove si mette il radiale. Sì, è quella della lente, quella che veniva a fusare, penso che sia la stessa. Sì, ce l'aveva Daniele montata quest'inverno, prima che cambiasse tutto. Sì, allora è tutta quella che avevo io uguale, perché la mia era della lente, l'avevo presa e si riusciva a fusare, ma si parla così. Perché ho guardato su internet, della stessa antenna c'è una versione più piccola di 2,60 metri, boh, non mi ricordo, comunque c'è una versione leggermente più piccola, questa è quella da 3,10 metri. Sì, perché la mia bomba è la bomba, e ne faccio davanti una posizione che si fa prima di tutte le Sì, questa vabbè, c'è lo stilo principale che è in alluminio, praticamente diviso a metà, filettato con un coso in ottone. Ah, ecco, quindi quella è proprio la bumera grande, quella praticamente la concorrente della Grand Plane. Sì, questa è la boomerang grande, quella da 3,10 metri. No, io invece allora lo so, era quella che era caricata e rivestita poi di nero in plastica nello stilo e nella sala. Ho capito. No, ma mi stava dicendo anche doppio room tempo fa che l'ha avuto anche lui e quindi già gli funzionava bene anche a lui. No, andavano bene, perché noi siamo in stazionale molto meglio della Gran Pugna, che comunque faceva situare un altro, e molto meglio della Lingo, e come faceva presto, passavano da 1,5 a 4. Guarda, l'ho sperimentata la cosa sino a qualche giorno fa, proprio è veramente molto suscettibile quell'antenna lì. Sì, adesso a livello di orecchio così, anche se non fa testo, però mi sono accorto che forse per via della lunghezza, chiaramente la ricezione è leggermente diminuita. Vabbè, chiaramente, no, arrivo era poco distante dalla massa, spesso non l'ho incontrato una persona dell'Africa, quindi io sono vita con un parlante da un momento e mi è andata sempre bene, però non mi parlato alcune altre persone che tutte le cose che ho visto è che con gli occhi, diciamo, è stato contattato di persona e come c'era un vento, oppure come piove, ma saliva, scendevano per calcolare anche loro. E la cattia, quello che non andava, quindi abbiamo provato a rispettare quella cappuccina L che c'è di 70. Abbiamo provato a sostituire il capo, per quel capo che si è passato con l'assetto, facendo un quadro. No, abbiamo provato a togliere e a mettergli un altro modo, la blocca e la sfida in un altro modo. Avanti Giulio. Sì, ciao. Ciao già. Tu, ma quella scala che ti avevo fatto nella tavernetta, ancora funziona, l'ho già facciata adesso. No, l'ho già lì, è che ho appena riparato in roba e non so se grazie. Guarda se mi senti adesso, Antu, prova, faccio una prova, 1, 2, 3, prova. Adesso ti sento il così. È vero. Sono a casa della mamma, dai, qua già va, dai. Ma quello che fa parecchio. No, questo è il Typhoon, questo famoso Typhoon era il tuo, poi da te è passato a Roberto Quadratto, se ti ricordi, poi da Roberto Quadratto è passato a me, ce l'ho 10 anni di più. Ah sì, quello della lampadietta. Bravo. Va bene, perfetto. L'unico problema che mi ha tanto è lo Smith che si era mezzo rotto. E me l'ha fatto Antonio Dittiri. Ah, Antonio Mettal. Lo so. Giulio, tu mi ascolti bene, Gianni lo stesso, avanti. Alla grande, certo, tanto che fa benissimo Luca. Quando sei a casa problemi non ce ne sono, io lo dico. È tutta un'altra musica, Luca. Come sempre, insomma, no, fortissimo. È la grande, veramente. Va bene, va bene. E tu, e sei graffiata, sì, io non credo che sei graffiata, è un legno che giochiera, è normale, no? E poi, perché mai te che non te l'hai verniciata a me? lo so, io l'ho verniciata, non sì, io, per come l'ho verniciata è girata, perché sono salito, sceso di mobili, ho fatto i traslucci, poi abbiamo fatto quel lavoro di muratura, perché se non ho messo il cartone, forse mi converrebbe a non metterlo, perché col cartone si è rovinato di più. Ok, altro. Vabbè, quello. Ma già va bene lo stesso, comunque, non è un problema. Comunque, se è la piazza, si può riprendere, Diego, altro, non è un problema. Quella è una scarpa metrata, vedrai, e poi ti vernici bene, con vernice dura. Magari acrilica, va, e così almeno si rimane più dura come vernice. Andà bene. Vai, vai, continuate a parlare all'antenna, vai Gianni. Un prefetto, o un profeta, cosa dire, prefetto o profeta? Profeta, prefetta, prefetto, di tutto le dita che ti chiamano. Un sindaco sì, ma anche tu lo sai. Profeta, la profeta, magari fosse stato profeta, ci avremmo invocato qualche miracolo. Profeta a profettare. E questo te l'ha passato a lui. È vero. Ci è rientrato. E adesso passando il pennellino al computer c'è un po' di polvere. Cioè no, computer, la baracchino Antu. Ma è che non c'hai, no, ti avrei mandato la foto, mi ho messo la mensolina, allora sotto c'ho la, come si chiama, la scrivania, sopra gli ho messo una mensolina, su ci ho messo le macchinette con l'aria calda e con saldatore, e poi ho comprato l'aspiraccagno ad aria, e ci ho messo tutte le cose sopra, sotto sono libero, e sotto la mensolina mi ha attaccato il baracchino. Ah, e dopo ti raggiungo l'Alzheimer. Non mi ricordavo il nome dei cosi, già mi sto carino, ma non c'ho più spazio. Ho dovuto smontare una cosa, c'ho spazio nella scrivania. E in più sotto ho messo dei LED, tu, fanno una luce bianca bella. come funziona così, mi fa pensare, ma dove devi dire? Io per fare il cambio dalla cantina sono stato in un garage, dopo il garage ho riuscito, allora mi dovevo fare una campagna e sono copiare dei porecchini, allora che vuol dire non sono più nel portale. Se abbiamo un garage, la meglio, cioè, vabbè, se c'è uno sgabuzzino ma ne sta crollando. Ho dei pezzi che mi sono rimasti, i computer, l'avrei messi lì. Ma guarda, credo che per l'esperienza vissuta, mi porta un po' cosa, Anto? Ho detto, per l'esperienza vissuta, qualsiasi posto non passa mai, soltanto 20 minuti qua, ne 20 minuti 30, ne 20 minuti 40, ne 20 40. Allora, tu porta ciò, 1, 2, 3, 4, 3, 4 televisori... di cui 2 da 22, no, 2 da 22, 1 da 24, l'altro da 26, e di cui 3 funzionanti e l'altro di manca il pannello LCD. Poi c'ho il mio televisore grande, quello, guarda, un casino. Non posso immaginare. E vabbè, la casa ne ha fotti, tanto. I rasoli, senti, mi sento un quarto, c'ho, carta! No, tra un po' vado in pizzeria, non la terapia. Non mi ricordo però, mi ricordo, sì, però non ricordo come è fatto. Ah, dai, pure è fatto come il brutto, dai, praticamente c'ha 5 bande, poi c'ha, è nero, tanto come il tornado, si apre il tornado. Sì, come il 4005. Bravo, uguale identico. Ah, guarda, ce l'ho anni e anni e anni, non mi ha mai dato problemi. Nulla, zero, perfetto. Sì, adesso parlo di vabbè, dai, io vi saluto. Ciao Giulio, so che c'è rimasto qua, Antonio. Io chiudo, ciao, vado a prendermi l'aperitivo. Vabbè, ciao Lu, ci sentiamo, ciao. A me per la mia salute anche. Ciao Giulio, a domenica se Dio vuole, dato che già rientro presto a casa. Se ci siete, due chiacchiere fanno piacere, dai, ciao. Ok, ciao Lu, ciao, alle tue. Gianni, ci sei? Eia, mi sono spostato un attimo. Sei andato per ossigenarti così? No, mi sto mangiando un paio di biscotti. sei un po' con il cardio. Vabbè, dai, aspetta che mi mangio una caramella menta anch'io. Così almeno mi schiarisco un po' l'uvola. Va bene, va bene. Dai, volevo provare l'esperimento di piegare il radiale, ma mi è bastata la gara, dai. Vedi, ok. Poc'anzi stavate parlando di inclinazioni radiali, antenne e balle varie, no? 45 gradi, non sai per cosa seguo, perché vuoi fare 45 gradi per radialino, te lo seguo io. Dimmi. Per l'impedenza, no, per avere 50 ohm, giusto, se tu vari l'inclinazione cambia l'impedenza, ecco per cosa serve. Ho capito. Quindi ha... Cioè cambia anche la cosa delle stazionali, dici? Beh, sicuramente sì. Certo, può cambiare quello. Perché non è più la sua esperienza originale. Si fanno 45 gradi per quel motivo lì. Praticamente tu hai un'antenna come se fosse un dipolo verticale, no? O meglio, capovolto. Anziché se la a V capovolta, no? E dunque... Se tu allarghi il radiale ha un'impedenza e dunque una resa. Se lo smetti lo metti a 45, quella è la resa massima, perché è costruito così. Ok. No, ma adesso chiacchierando con Antonio stavo parlando di come sono riuscito a misurare, di come ho ottenuto i 45 gradi. Vabbè, io ho usato un metodo, lui ne ha usato un altro, comunque entrambi erano giusti, dai. Sì, beh, certo, quello sì. Tanto vabbè, porca miseria, ho lasciato troppo tempo uno strumento qua senza ricaricarlo, e a quanto sembra non ricarica più, forse la batteria se n'è andata. È probabile. Pensa che non me lo ricordavo più nemmeno. di avere questo strumento, che poi tra l'altro è uno strumento professionale, questo punto di là costava un sacco di soldi. Dunque, vabbè, adesso vediamo di ripristinarlo se è possibile, se no vedrò se riesco ad avere la batteria nuova. Nel caso ci sono gli accumulatori, ci sono i pacchi di batterie in vendita, magari si possono sostituire, se si può aprire il pacco batterie. No, questa è una batteria tipo quella del telefonino. Dunque è così. Ho provato a ricaricare ma non accenna nemmeno a un minimo di ricarica. Ok. Antonio, ancora ci sei? È al telefono, Antonio. Ah, ok. Bene, merda. Vabbè, Luca è andato. Daniele, è sparito? Sì, è sparito, sì. Gianni lo stesso. Gianni, ci sei? Gianni, il doppio No, già non vedo se ne è andato. Forse perché poc'anzi non ha risposto nessuno. E allora se ne è andato. Va bene, dai. Mi dispiace questa parte se non funziona, perché l'abbiamo pagato un sacco di soldi, a livello di 500-600 euro. E non me lo ricordavo più, ce l'avevo sempre conservato nel cassetto. E adesso non accendo nemmeno ad accendere. Ho capito. No, già nel doppio room aveva ospiti. Mi si è dovuto assentare perché c'era gente che è andata a trovarlo. Ho capito. Andare. La buona. A me mi sente sempre bene con la radio sua, quella originale, come dico io, o come dici tu. Non ti ho capito giù, scusa. Ho detto se mi senti sempre bene con la mia radio, quella più originale, o come dici tu. Va benissimo. Perfetta. Ok. Anche la tua già va bene. Andare, problemi non abbiamo, ormai siamo più che sistemati bene. Certamente. Ma stavo dicendo ad Antonio che oggi la propagazione si è vista solo per qualche minuto e poi è sparita. Sì, vabbè, non è sempre che c'è, ancora non è aperta bene, tra l'altro è una propagazione così, quando è veramente forte ci rimane tutto il giorno, anche di notte, figurati, ma perlomeno negli anni passati era così. Adesso non è più come una volta comunque la propagazione, perché l'essere troppo saturo di segnali anche, non è poco di segnali, soprattutto il discorso telefonini, mamma mia, quindi hanno danneggiato un po' anche la frequenza della 27. Veia, stamattina è entrato Fabrizio veloce per un controllo. Arrivava qua arrivava sparatissimo, proprio segnale fortissimo, e niente, è entrato 2 minuti proprio per scambiare, insomma, per chiedere un attimino come si era cambiato il segnale. Caspita, si è cambiato. E poi vabbè, poi è entrato Claudio, anche da lui è cambiato. Poi mi sono affacciato a casa, ho preso il binocolo e ho capito perché è cambiato. Perché hai visto, vuol dire l'antenna di Fabrizio, l'hai visto magari lontana. Fabrizio, già lo credo, quando se ti punta l'antenna Fabrizio addosso, che fa saltare il baracchino sul tavolino, la rubiria. Certo, e ma lo sappiamo. E poi Fabrizio è attrezzato, non è come noi, no? Che abbiamo due giocattoli, lui ha una bella stazione nel radio. Ehi, ma ha detto che ha tirato tutto su stamattina, scusami un attimo, eh. Ok. Eccomi, stavo parlando col vecchio. Giulio, ci sei ancora? Giulio? Sì, che ci sono. Ah, ecco, no, è entrato Rubeccio e mi stava chiedendo una cosa. Rubeccio, ah, tu puoi usare Rubeccio? vabbè, andate. Tu grande lei è il tuo padre, è più piccolo, io ne ho 77. No, è più grande, è più grande. Ah, ok. Vabbè, dai. allora, si chiami lui, Rubeccio, anche me, mia figlia mi dovrebbe chiamare Rubeccio. Vabbè, lo chiamo così in maniera simpatica, dai. Beh, certo, ci mancherebbe, vuole vedere. Sì, ma quello lo so. Andave. Oggi però poca gente in frequenza, quanto sembra. C'è una bella giornata e la gente ha preferito andare in giro, farsi quattro passi. Ehi. Sicuramente è così. Chiaramente cambiano le condizioni, quindi meglio fare altro rispetto a che stare attaccato alla radio, magari in orari diversi, comunque già si può fare. Beh, certo, ci mancherebbe. E comunque, anche domani dovrebbe essere una bellissima giornata, stando a quello che hanno trasmesso nel meteo, per cui dovrebbe essere anche domani una bellissima giornata. Domani è sabato e tanta gente se ne andrà anche al mare. No, meglio così, dai. Stasera, questo, ho sentito Eugenio col camper che era in zona di Platamona, siamo rimasti collegati sino a un bel pezzo e poi superata la marina di Sorso, ho iniziato a perderlo e non l'ha già ben inteso. Comunque già siamo rimasti un bel po', dai. Ok, beh certo, quando cominci col camper non è che hai una propagazione molto lunga. Col camper sei penalizzato molto perché l'antenna non è messa in una posizione ideale. Magari c'era sul parafango, c'era sicuramente, o a destra o a sinistra, perché solo lì lo puoi mettere dal momento che la macchina, la cabina del camper non è metallica, per cui è quello il discorso. È in una posizione brutta l'antenna nel camper, perché la mettono tutti quanti sul parafango per avere massa, diversamente no, non riuscirete. Oppure in alcuni casi, tipo nel Ducato, che ho visto, praticamente c'era un adattatore che si agganciava al cofano motore. Lo stesso, non cambia molto, non cambia niente molto. Per andare bene vuole mettere sulla cabina del camper, però allora in quel caso lì bisogna fare tutto un lavoro particolare. Ad esempio, quanto è grande la cabina, fare una massa, cioè un piano metallico e installare l'antenna lì, e questo piano metallico collegarlo alla massa della macchina, magari possibilmente in quattro punti buoni, ben serrati, eccetera eccetera, con molsetti in acciaio inossidabile, in modo che non si avviciniscono, se col tempo si avviciniscono e prende la massa. Allora sì, si incomincia a ragionare, però nessuno fa un lavoro del genere, anche perché mettendo questo piano di presente sulla cabina della rotto o del camper, è capace che poi si scalda anche di più all'interno della rotto, perché come picchia il sole è chiaro che fa anche da stufa, si fa. Beh certo, poi se metti una cosa del genere devi forare, poi se fuori potresti anche provocare qualche infiltrazione dentro e quindi insomma le cose si potrebbero mettere male. No, non è necessariamente necessario o forare, perché mettere i cavi ben robusti ai quattro angoli della piastra meccanica e colleghi direttamente alla carrozzeria, colleghi. Dunque, non è che devi bucare la cabina, non serve a niente bucare la cabina, ci mancherebbe. una cosa, ti volendo una cosa esterna praticamente, che non sfiguri anche, che rovini l'estetica della macchina, soprattutto un bel cavo con magari dei quattro angoli di questa piastra metallica, poi viene ancorata alla cabina dove c'è la parte metallica per poter fare una massa completa. Allora sì, è l'antenna al centro, forata normale, non forare la cabina, forare la piastra metallica. Ecco com'è la situazione, così già può andare bene, anzi va bene, non potrebbe. Tanta gente ce l'hanno, i camperisti di Furi, non di qua, della Sardegna magari no, ma di Furi ce l'hanno questo sistema di installazione dell'antenna. Certo, certo. E vabbè, magari c'è chi ha la possibilità di fare determinate modifiche, evidentemente a Eugenio va bene così. Certo, ci mancherebbe, io lo guido. No, e poi per loro magari già va bene, ma io pago per poter parlare con lui a distanza un po' medio lunga, dai. Però per loro, per come se la montano loro, tra campionisti e campionisti, intanto vanno sempre uno in colonna con l'altro, a distanza di qualche chilometro, così e già si sentono. Ma per poter parlare con noi, la stazione fissa, ci vorrebbe con l'installazione, come tu dici. Certo, certo. Capisco, capisco. C'è un rumore sotto. Un rumore elettronico da poco fa. C'è un mio compagno, guardiamo dentro la cosa anch'io. E ogni tanto già ci sono questi rumorini così. Ma comunque. È tutto per effetto della propagazione lì. Perché è aperta, è mezzo aperta e mezzo chiusa. Non è che è così vince la bella la propagazione. Certo, certo. Poco fa, insomma, prima c'erano degli spagnoli che stavano arrivando, adesso sono chiaramente la propagazione è scesa, quindi sono spariti. Sì, la propagazione varia da minuto a minuto, varia, non è che rimane sempre ottimale, no? Assolutamente no. Se tu guardi, perché alle volte ti arrivano magari Santiago Novo e altre volte ti arrivano Santiago 1. Per quel motivo lì, perché varia, la propagazione varia costantemente, proprio non esiste un punto fermo, è difficilissimo trovare la propagazione sempre con lo stesso segnale per un bel po' di tempo, assolutamente no. Va bene, magari dagli anni passati già potrebbe durare un pochino di più, però in genere c'è l'evanescenza del segnale, perché c'è, e no, questo non si può dire no. Ehi, sì, non è mai stabile, non è mai costante, è sempre molto, molto variabile. Come funzionano le nuvole, funziona anche la propagazione. Poi bisogna vedere quando la propagazione è al primo strato, al secondo strato, al terzo strato, al quarto strato. Quando comincia a essere al quarto strato, che è molto alto, allora è fenomenale. Allora arrivi dall'altra parte della terra, anche con un semplice baracchino, con un semplice antennino. Ma quando la propagazione è diventata al primo strato, è chiaro che non può essere buona. Certo, certo. Vabbè. Staremo a vedere, vediamo cosa succede quest'estate. Così la sperimentiamo. Già arriva forte, ci saranno dei giorni che arriva fortissimo, che faremo sempre fatica a sentire quelli di Satana, perché si sovrappongono e sovrammutano anche. È successo tantissime volte e continuerà a succedere quando veramente la propagazione è forte. Arriveranno i QSO locali da altre parti dell'Europa, cazzo, e succederà, insomma, uno sopra l'altro e sarà una brutta. Infatti, è quello, è quello. Va bene, bene, ma noi ci accontentiamo con la verità pure fra di noi comunque, dai. Per cui se queste pretese non è che le abbiamo, sì, è bello quando si apre la propagazione, quando non c'è troppa confusione, allora ci piace anche fare dei collegamenti, però tutto sommato da voi non è che non vinciamo niente in poche parole. Non ci tocca. Certo, certo, quello è poco ma sicuro. Vabbè, anche divertirsi un attimo per scambiare due chiacchiere con gente molto lontana, capito? Beh, certo, ma una volta c'era la più soddisfazione, c'era, anche perché c'era un enorme che si parlava, io non mi ricordo, tanti anni fa c'era una certa Rina, se ricordo bene, che si chiamava questa ragazza, ed era di Brindisi, chiamavo, mi diceva sempre un attimo Giulio, mi diceva un attimo Giulio, e io aspettavo, è finito, richiamavo, sì, un attimo, perché c'erano tante chiamate dentro le parti, no? E dunque, e lei mi rimandava, ha sbagliato, siccome lei dava le coordinate, dava delle sue coordinate, no? Perché noi ci si scambiava la QSL, la cartolina, eccetera. Ha sbagliato, l'hai scritto così, dalla cartolina. Ti sento, ti chiamo, mi ascolti e mi dici di attendere. Ti richiamo e mi ripeti di fare attesa. La prossima volta te la metto. E poi l'importante è cosa hai capito. Beh, lo sai che questa frase siamo diventati grandi amici. E tutte le volte che la chiamavo al primo impatto, sì, lasciamo tutti e parlava con me. Dai, ah, cosa simpatica, dai. Quella battutina che lasciava il doppio senso in sospeso, dai. Appunto, questa di Brindisi, era una ragazza di Brindisi. Infatti ho diverse cartoline, ogni tanto mi mandavo la cartolina, anche se non collegavo, mi mandavo anche a distanza di anni, mi mandavo le cartoline ugualmente. E io le ricambiavo lo stesso, non è che non le ricambiavo, anzi qualche lettera anche. Devo dirti che eravamo diventati amici, eppure non ci siamo mai conosciuti di persona. Magari, ma in frequenza, appena che mi sentiva, subito entrava o sul canale che dove ero io, oppure entravo io sul canale dove era lì. Ad esempio, alle 5, alle 6 del mattino, di mattina presto, c'era grande propagazione, si formava un gruppo, si formava 6, 7, 8, 10 persone, e io mi mettevo le cuffie e ci parlavo sottovoce, eppure mi sentivano talmente bene come quando parlo normale. Io parlavo sottovoce perché era troppo presto la mattina, per non disturbare a casa, allora, ma comunque mi spostavo in un'altra stanza, mi spostavo, no? Perché allora il palacchino era in un'altra stanza, non ero qua, però non abitavo in questa casa, in un'altra casa. E dunque ci chiacchieravo, ma parlavo sottovoce ugualmente, perché se no da camera a camera mi avrebbero potuto sentire e avrei disturbato la famiglia. Invece no, capito, già. Certo, certo. Vabbè, dai, i soliti accorgimenti per cercare di disturbare il meno possibile, dai. Beh, certo, no, magari avevo fatto tutta la notte al baracchino. Avevo fatto tutta una tirata e ancora non ero nemmeno andato a letto. Si pensi di una volta questo è successo, perché allora si facevano lunghissime queste ore, si facevano, c'erano tanti di quegli amici, e mi ricordo Altarena, Corsaro, con il palazzo dei ferrovie di via Pocellana, non me lo ricordo più nemmeno come si chiama, quella donna lì, una donna che aveva la casa dei figli, il marito si addormentava, si coricava e lei stava tutta la notte al baracchino parlando con noi, capita, Bonforte che era il direttore dell'automobile club di Sassari, Rosetta, la moglie, anche lì, tutti insieme parlavamo così, Gabriela tante volte, da Porto Torres, i chi si è valido, a fare le ore piccole quante volte se sapessi, oppure parlando con Alghero, con Magliolino, con Corvolano, ehi la tagliente, insomma 24 ore su 24 ore tu potevi parlare a Maracchino, c'era gente, ma tantissima gente su tutti i canali, allora i canali erano qua 23 solamente, eh? Certo, certo, vabbè. Un momento storico diverso, quindi è chiaro che insomma c'erano molti più appassionati e molti più insomma più affezionati al 27. No, mi ascolti? Certo che ti ascolto. Ok. Ciao Gianni. Ma vuoi un controllo di radio per favore? Certo, la radio è ultima, è bellissima. Va benissimo. Va bene, ascolta, il segnale va bene. La radio va bene, microfono normale, sto provando la vecchia baracca a vedere. Va benissimo, il segnale è fortissimo, lo stesso, oltre i 920, 922, per cui va più che bene. Ok, perfetto, microfono normale, quindi allora il Mickey Game mi dici di tenerlo così in questa posizione, col processore inserito, va bene? Sì, va bene, così va bene qua, no problemi non ce ne sono, va benissimo, va benissimo. Sì, dai, perché mi ha fatto un lavoretto Fabrizio, letterature, volevo capire com'è. Questo è il 430 però, non è il 440. Oh Gianni, da te va bene? Mi accoppi bene, puntello? Puntella qua, va benissimo, segnale perfetto e radio uguale. Radio va bene, non come quella di sempre, con l'MC60, questo è il microfono normale, perché se mi dici che la radio è come quella che senti sempre, mi butto dalla finestra. No, negativo, non ho detto questo, ho detto che il segnale è ottimo e la radio è ottima. Molta differenza già, noti, vabbè, dall'MC60 a questa, può essere una buona radio spinta con la mia modulazione? Va bene, cra, sì, lo sentirebbe chiunque ha un buon orecchio che non stai usando il microfono solito, comunque va benissimo. Vi ringrazio tutto Duocio, dai, metto a posto e dopo mi sistemo il cane e ci sentiamo. Ok, grazie Giulio, grazie Gianni. A proposito Giulio, tutto a posto? Sì, sì, a posto, qua. Adesso devo fare una cura di prevenzione e dunque che la incomincerò dal giorno 3, una volta alla settimana. Poi per il resto è a posto, dai. Si fa una cura di prevenzione per non deformarsi niente, tutto lì. E tu, con la schiena come stai? Sono più che contento Giulia, più che contento, vai, va bene così, ti dovevo chiamare, ne ho approfittato per sabirtelo, vai, poi magari ci sentiamo con calma. Grazie, un abbraccio a tutti e due e ci sentiamo magari più tardi, ok? Vai Rubrofè. Ok, andrà bene, comunque puntella tutto quanto che va bene tutto, dai, ci aggiorniamo. Ok, ciao qua, alla prossima, ciao ciao. Va benissimo comunque, anche se il microfono normale va benissimo, ultimamente bene, fortissimo, chiarissimo, al 100%, anzi al 1000%. Va bene, va bene, vabbè, così è, Gianni, appunto ti stavo dicendo, in quegli anni lì, sembra che sonno non ne avevamo mai, perché si rimaneva fino a ora inoltrata la notte, io non lo gioco, poi l'hanno messo lì per tutta questa forza, poi di nuovo alle mattine a lavorare tutta la giornata, eppure non avevi dormito in tutta la notte, proprio per effetto dei collegamenti fatti a baracchino. Certo, certo, vabbè, come ogni passione che si rispetti, solitamente non hanno orario, quindi uno si butta a capofitto e poi non se ne rende neanche conto, capito? Sì, beh certo, no, ma tu pensa, allora eravamo proprio organizzatissimi a quei tempi, nel senso che nonostante le poche capacità e possibilità di radio che avevamo, non capacità, possibilità possibilità di trasmettitori, perché avevamo quello che avevamo, non eravamo così evoluti come magari possiamo essere oggi, eccetera, no? Avevamo dei semplici baracchini. Devo dirti che si divertiva alla grande, anzi c'era una soddisfazione ancora maggiore, perché sapevi che avevi un apparecchietto da niente e riuscivi a fare certi collegamenti straordinari. Poi naturalmente non ti posso nascondere che c'era anche troppo casino, per carità, mamma mia, quanta gente maleducata che c'era, però in linea di massima la gente maleducata raccattavi e parlavi con le persone che avevano l'educazione come natura, no? Come quelli che c'erano, per carità, poi già mi puoi capire, no? Certo, certo. Sì, vabbè, altri tempi, come giustamente abbiamo detto prima. Comunque, non penso che, guarda, ci sono altre cose che stanno ritornando in voga, come i dischi in vinile, quindi magari cosa ne sai, tra qualche anno c'è un ritorno di fiamma anche per la CB, quindi magari la frequenza si ripopolerà di gente. Magari succedesse di nuovo così come una volta, ma non credo, perché i giovani di oggi difficilmente sono portati alla radio, alla rete trasmissione. Sembra che gente che abbia passione per il baracchino non ce ne sia più. Prima invece tu se ne vado la testa col quadro sui tetti delle case a Sassari non vedevi altro che antenne di baracchino. Naturalmente anche tanti problemi c'erano, perché tanta gente faceva TVA e dunque c'erano delle discussioni anche a volte anche fatiche, però tutto sommato diciamo che ci siamo divertiti ugualmente. Poi c'erano le competizioni, sai, le grandi sfide, c'erano le famosissime persone come ad esempio Bartene con Claudio, che facevano le gare perché grandi stazioni, no? Come si chiama? È l'aereo tecnico, ma non me la metto più, quando di via Mosca, non me lo ricordo più nemmeno come si chiama, aspetta un poco, che ormai non lo sentiamo più al baracchino, difficilmente lo sentiamo, qualche volta l'abbiamo sentito il PNR, qualche volta, però, ma comunque, per dire, no, c'erano anche queste competizioni, tutta gente attrezzata con grandi lineari, eccetera, eccetera, perché ti puoi immaginare come saltavano i televisori allora a quei tempi. Sì. A casa del mio amico c'aveva un organo, un pianoforte elettrico, con tutte cose, aveva le casse praticamente sotto, vicino alla pedaliera, e praticamente il pianoforte e l'organo spento praticamente si intendeva il baracchino di un amico mio che stava lì in via Marmora. E sono quello, capita, nei jukebox si sentivano, nei campanili delle case, nei videocitofoni, facciamo saltare tutto, ma dai, ui, che macello che si forma, anche a lunga distanza, a lunghissima distanza, certe interferenze, forse c'era gente che aveva lineari da 1000 watt, ragazzi, cioè magari ce ne davano 700-800 in antenna, ti puoi immaginare, poi con il tipo di televisori che esistevano allora, sai, quelli a tubo cattolico che avevano una media frequenza poco filtrata e dunque entrava qualsiasi segnale, poi c'erano tra l'altro anche gli amplificatori nelle antenne, ti puoi immaginare che che bellezza. Poi se sapessi le guerre che ci sono state, io per la verità non ho avuto mai problemi di TVA, però io non ho mai avuto lineare, ho usato sempre baracchini normali, senza grandi potenze, per cui non ho avuto mai di questi problemi. L'unica volta che mi accusavano che ero io, che mi disturbavo, poi li ho convinti che non ero io. Dopo ti racconto come ho fatto, per non fare un passaggio troppo lungo. E capa. Ho sentito qualcuno sotto. Avanti, c'è qualcuno che vuole entrare? Rumore di fondo, la tremodulazione. No, deve essere propagazione, deve essere vogliamo. Ah, sì, è propagazione. Sì, sì, stanno arrivando altri segnali. Appunto, non so se è propagazione. Allora mi accusavano così, no? Eravamo nel periodo estivo delle figlie, eccetera. Io allora in quel periodo me ne sono andato in figlia, me ne sono andato. Intanto nel frattempo, siccome facevo molte applicazioni di elettronica, costruivo tante cose, radioline, eccetera, eccetera, avevo costruito un ricevitore a reazione, che era micidiale. Quando accendevi con la radio si disturbava, tutto un quartiere si disturbava, perché la radio a reazione era anche non solo un ricevitore, ma anche trasmettitore nel contesto, ma stava accendendolo e faceva un disastro. Allora, quando sono andato in campeggio, io allora in quegli anni facevo campeggio, tutta la famiglia, no? Rimanevo anche 3-4 mesi in campeggio, me ne sono andato per una settimana intera. Ho fatto sapere a tutti che eravamo campeggio, a tutti quelli del palazzo, della zona, lo sapevano tutti, e io non c'ero. E di preferenza cosa è successo? Siccome mi accusavano che ero sempre io che facevo TVI, ho preso e gli ho acceso questa radio, questo ricevitore a reazione, me l'ha acceso tutta la settimana. Quando sono rientrato, il lunedì dopo, si sono convinti che non ero io che disturbavo. Proprio in quel momento che io disturbavo e avevo disturbato di proposito, non ero più io. Beh, da allora mi hanno lasciato in pace, allora hanno cominciato a chiamare antennisti, eccetera, eccetera, per sistemare l'antenna del palazzo e poi ho dovuto anche partecipare alle spese dell'antennista, eccetera, no? E dunque si sono convinti che non ero più io, fin quando non si è messa a posto l'antenna. Per dirti no, invece non ero io che davo fastidio, ma era l'antenna che non era in grado di funzionare bene. Ho capito, dai. Comunque, alla fine questa situazione poi si è messa a posto da sola, dai. Sì, perché li ho convinti facendo il furbo. Quando ho fatto il disonesto, allora si sono convinti, allora si sono convinti che non ero io. Per dire, ma se non c'è non può essere lui. E se non c'è a casa sua, è il campeggio, non lo vediamo da una settimana. Ecco come si sono convinti. Però avrei avuto sempre le colpe addosso senza che io minimamente facevo TVI, tanto più che io avevo l'antenna della televisione, ce l'avevo nella ringhiera del terrazzino, perché l'antenna del palazzo, che era un'antenna centralizzata, era messa male, proprio una porcheria di antenna. E io avevo l'antenna mia della televisione e in punta ci avevo messo l'antenna del baracchino, ci avevo messo. E ti puoi immaginare, se io non disturbavo la mia televisione, come potevo fare a disturbare gli altri dal momento che avevo l'antenna del baracchino, non sullo stesso palo dell'antenna della televisione. Servizio, si sono convinti e mi hanno lasciato, anzi mi hanno chiesto anche scusa. Certo, vabbè, davanti a questa evidenza, insomma, chiunque deve accettare le cose come stanno. Appunto, se te lo sto dicendo, la gente poi, mi hanno chiesto anche, quelli del palazzo mi hanno chiesto anche scusa, dice, ti abbiamo accusato averci causato mai niente, tu scusati dai, ma non sapevamo che era l'antenna così, ma io ve lo dicevo sempre, perché io dicevo, siccome io ho fatto 12 anni di antennista, io facevo l'elettricista prima di fare il falegname, no, e dunque facevo l'elettricista e l'antennista nel contempo, e io sapevo il mestiere, lo so ancora il mestiere da elettricista e di antennista TV. E io lo dicevo, no, guarda, però io non volevo mai toccare l'antenna del palazzo, perché poi cosa succedeva? Magari si accusavano che ero io veramente o qualcosa del genere, e allora chiamavo l'antenna da esterno, capito? E io partecipavo a quello che chiedeva l'antennista, ma l'hanno aggiustata roba di 3 o 4 volte e la soluzione non era quella. Perché non era quella? Perché l'antenna di che c'era sul tetto era marcia, tu pensa che era l'antenna che quando esisteva solamente il primo e il secondo canale e non c'erano altri canali, e non c'erano allora la televisione. Sì, in quel periodo arrivava, poi è arrivato il terzo canale, ma io prendevo la televisione direttamente dall'isola d'Elba, perché con l'antenna mia io me l'avevo lasciata un po' lenta come bullonatura e mi giravo il tubo, e dunque orientavo l'antenna dall'altra parte, no? Avevo fatto tutti i segni sulla tappa e sul tubo, e dunque quando volevo vedere ad esempio Telecciocco, prendevo, giravo e vedevo Telecciocco, volevo vedere Telemonte Carlo, quando Telemonte Carlo non esisteva proprio nella maniera più assoluta, e io dicevo Telemonte Carlo, e così altre stazioni TV che allora stavano emergendo. Avanti il break. Buonasera Lupo Grigio, allora qua da me Gianni Sassari Basso, sei Santiago 7, rispetto alle altre volte il segnale è un po' salito, la radio è sempre un po' bassina, sono in compagnia di Giulio, non so se lui ti ascolta, avanti Giulio. No, non lo sento, non lo sento, chi è? Lupo Grigio, l'amico Giulio non ti sente, ti copio solo io. Ok, alla prossima. Questo Lupo Grigio ogni tanto si affaccia, ma io quando lo sento, non ci arrivi qua, o Lupo Grigio qui, sono i punti, due ci arrivi. Lui è penso che sia dalle parti di coro, lì del quadrato, non lo so. E allora io non lo posso sentire. Va bene, attrezzati con l'antenna e magari mettiti un baracchino anche tra l'altro. Gianni, cosa? Allora le cose andavano bene per me, perlomeno. Ma tutto questo perché io avevo fatto esperienza, intanto perché avevo trovato una canalizzazione giusta che prendevo il segnale direttamente dal visore del bar, perché tu, non so se tu lo sai, tutti i segnali che arrivano qua sia a Bagno Urbana che a Monteoro eccetera, arrivavano dal visore del bar, la cosa centrale. C'era una canalizzazione che io riuscivo a girare l'antenna in quella determinata posizione dopo aver fatto giorni e giorni e giorni di prove, dunque però li vedevo e vedevo Telemonte Carlo, quando Telemonte Carlo a stanza lì se lo segnavano, poi naturalmente è cominciato a fusare eccetera eccetera, Telemonte Carlo lo vedevamo con i suoi amplificatori di che facevano schifo, che poi tutta la modesta di questo mondo. Certo, stiamo parlando di parecchi anni fa. Sì, mi ricordo. Mi ricordo il periodo. Telecioco, sì. Telemonte Carlo, poi va bene. Le prime TV private qua a Sassari. Teleobiettivo Sardegna. Nuova Telettere. RTF, che ne è Via Lumberto. Radio Telefinsar, già me ne ricordo un po', dai. Infatti, c'è il Rama, c'è il Vestivo Sardegna, ce n'erano, allora c'erano 5-6, solo a Sassari di TV, poi sono andati tutti scemando e hanno ognuno in più. Mi ricordo poi qualcuno in quegli anni dopo che aveva chiuso Televisivo Sardegna, c'era l'antenna di quel Televisivo Sardegna che era grandissima, qualcuno la utilizzava anche per il baracchino, anche in VHF, qualcuno così abusivamente la utilizzava, ma carità, se la ricordi con l'antennona di cielo di Televisivo Sardegna, il doppio di un'antenna normale direttiva di oggi. Sì, me la ricordo, Gio, me la ricordo. Vabbè, altri tempi. Anni fa mi era capitato di venire in contatto con alcune vecchie rimanenze di RTF, di Radio Telefinsa, scatoloni e scatoloni di videocassette varie, quando telefilm, telefilm e cartoni animati, vecchi telegiornali registrati, insomma, gioca quiz, insomma, c'erano un paio di telecamere di quelle da studio belle grandi, con il manubrio, con tutti i controlli remoti, roba vecchia, stiamo parlando di tecnologia di quegli anni, però insomma, sempre bello da vedere, le telecamere erano della Hitachi, me lo ricordo ancora. Erano avanzati un paio di registratori professionali da banco, grandi come delle fotocopiatrici di quelle professionali, sai, quelle stampanti che trovi nelle copisterie, quelle enormi. Ce n'erano due di quelli, due registratori a cassetta della Panasonic, enormi. Poi era rimasto forse un mixer video con lo, anche quello professionale, cioè aveva tre cloche, aveva non so quanti ingressi, c'era 8 o 12 ingressi, quindi no, era bella roba, non so che fine abbia fatto quella roba lì, ok, beh, sono tutti a fare catture di stage, che sarebbe bello, bello, belle uggi, sarebbe bello, veramente, sì, lo so, ma me lo ricordo, telegrava, se ricordo bene, la stazione era sua a Montalosello Alto, era lì, verso, vicino a via Castiglia, quella zona lì, insomma, più in sud di via Succi, era lì, telegrava, se ricordo bene. Le televisioni che hanno campato poco, anche perché per il batterebbe ci voleva un sacco di soldi, e poi erano anche abusive quelle. Quando hanno cominciato a scoprire e a fare pagare le tasse, eccetera, allora sono tutte sparite, le alluvia. E così lo stesso discorso lo dica per le radio, anche le radio lo stesso, sono, ce ne erano tante e poi sono sparite. Sono rimaste le più forti, sono rimaste. Ce n'era una anche radio lì a luci gialle, non mi ricordo, che la notte io mi ascoltavo molto anche la notte, perché telefonavano tutti i sassanesi, e non solo sassanesi, anche delle zone limitrofe a Sassari, per parlare di qualsiasi argomento, sai, ognuno diceva la sua, c'erano certe persone ignoranti, per carità, che non sapevano parlare assolutamente, ci facevano anche ridere. Poi c'erano quelli abitudinari della notte, che quelli magari li ascoltavano con più interesse, però erano praticamente sempre le solite, che quindi quando incominciavano a parlare non la smettevano più, però diciamo che gli era spazio un po' per tutti. Quella radio che c'era via Luci Gialle, dopo le Luci Gialle di via Filandello, si gira per scendere a Budibugio, lì all'angolo in quel palazzo c'era una radio, un uomo anziano, e non mi ricordo come si chiama, che ormai è morto, anche lui faceva radio. Ma la radio era Radio Europa 1, se non sbaglio? Forse sì, ma non me lo ricordo come si chiamava, forse sì, non so cosa dire, guarda, perché non me lo ricordo proprio, però forse qualcosa quel nome di me mi dice qualcosa. Perché ho capito più o meno nella zona è quella, sì, perché vedevo l'installazione dell'antenna, adesso mi sfugge il nome di quello che la gestiva, adesso non mi viene in mente, comunque se mi viene in mente te lo dico. Sì, comunque ho capito di cosa stai parlando. Vabbè, ce n'era, aspetta, come si chiamava? C'era quell'altra radio, non era Sassari Sera, esita, quella di via Calalberto, adesso il direttore era Enrico Porquedo, te lo ricordi? A voi adesso me lo ricordo, capita, l'ho conosciuto anche io, Enrico Porquedo, certo, sì, ma quello gli era capace però di fare la radio, ma quell'altro, sì, anche lui già se la cavava, però era, diciamo, vabbè, era molto anziano, un uomo molto anziano, per cui no, non è che gli possiamo dare tante cose. Però voglio dire, poi in quella radio lì soprattutto c'era un certo Mario che telefonava tutti e venuti immancabilmente, era una cosa, guarda, impressionante, ma lui riusciva a prendere la linea, io non ho capito come facesse lui a prendere la linea, perché il telefono di queste stazioni radio lì era sempre stato un dice di chiamate, e lui riusciva sempre a prendere la linea, tutti e venuti immancabilmente, una cosa, guarda, non lo so come facesse. Eh, che c'è più che altro è chi sta in regia alla radio che smista le telefonate, quindi prima di mandarle in onda chiaramente attraverso il traslatore telefonico uno praticamente prima di mandarle in diretta sente chi c'è in linea e magari come capitava spesso, cose che ho visto e che ho fatto anche io quando arrivavano telefonate di quelle insomma un po' così, praticamente attraverso questo apparecchio, il traslatore, le potevi mandare praticamente in onda o potevi chiudere la telefonata, capito? Quindi poi c'era il metodo dell'attesa, insomma quello, l'apparecchio che ti sto dicendo io era insomma abbastanza complesso, aveva l'ingresso per due linee telefoniche e ne potevi gestire diverse in attesa, insomma comunque già c'era il metodo, là. Evidentemente magari lì alla radio erano affezionati a questa persona e li facevano i rubiazzini. Ho capito, evidentemente era simpatico allora a quelli della radio e lo facevano passare preferibilmente per parlare lui, ho capito. Sì, ma dimmi una cosa, quel sistema lì come faceva? Quando poi l'utente parlava, non era proprio direttamente in diretta, c'era qualche secondo di ritardo, c'era sicuramente, così o Gianni? Come funzionava esattamente quello? A parte il presentatore, il DJ, quello lì, no, quello vabbè, sicuramente quello parlava in diretta, senz'altro. Ma l'utente come parlava? Leggermente in ritardo, traslato dalla regia oppure anche lui era in diretta proprio nel senso della parola? No, era assolutamente... Non c'era ritardo, capito? Cioè non c'era nessun ritardo. Chiaramente l'utente parlava attraverso la cornetta, chiaramente lo speaker sentiva la telefonata attraverso le cuffie e parlava col microfono lì appeso, col microfono da studio, no? Praticamente questo apparecchio, il traslatore telefonico praticamente convertiva il segnale in alta fedeltà in segnale telefonico, no? Con tutte le varie funzioni per gestire le chiamate in entrata, le attese e tutte le varie funzioni, no? Con volume e altre cose. Ho capito. Lo stesso modo funziona anche la TV per le trasmissioni, lo stesso modo anche quando c'è qualcuno in diretta e alla televisione, allo stesso modo funziona. Sì. È uguale, è la stessa cosa. Praticamente è un apparecchio che serve per convertire praticamente il segnale telefonico in un segnale audio di bassa frequenza, chiaramente un segnale da poter essere poi collegato a preamplificatori, a un canale del mixer, capito? Perché il mixer aveva un canale riservato col cursore con la scritta telefono. Però prima che la telefonata uscisse praticamente e andasse in onda si filtrava attraverso questo apparecchio, no? Perché capitava che c'erano telefonate, ti ripeto, che erano gradite e le si metteva in attesa e poi telefonate che da chiudere, insomma, e poi tramite il mixer audio gestivi col volume, col guadagno, insomma con i toni gestivi il suono e poi tiravi su il cursore e la mandavi in diretta. Ho capito. Praticamente tu facevi questo stesso lavoro, facevi tu quel lavoro lì di traslare, eccetera, eccetera. Sì. Vabbè, una volta che anche quando lavoravo ancora a Teleg, no? Si capitava che c'era qualcosa che facevamo in diretta con le telefonate, me ne occupavo personalmente io, avevo tutto sotto controllo, mixer audio, mixer video e poi avevo anche la parte col traslatore telefonico che poi dalla regia mia è stata spostata alla messa in onda, perché lì c'era praticamente un addetto che si occupava della messa in onda dei programmi e alla fine per alleggerirmi il lavoro il filtraggio delle telefonate veniva fatto direttamente dalla messa in onda, capito? Ho capito, sì, ho capito. Vabbè, anche bella, soprattutto perché è passione per la radio, per queste cose qua. Bellissimo. No, ma mi ricordo anche, tornando al discorso del baracchino, mi ricordo allora quegli anni lì, no, io sto parlando dei primi anni, della 27, eccetera, eccetera, eccetera. Addirittura, quando c'erano le partite di calcio la domenica, no, dai campi di calcio di dilettanti si facevano la radiocronaca e tanta gente ascoltava la radiocronaca tramite cioè col telefono faceva la radiocronaca e anche col baracchino, per dirti, no, ad esempio da Castelsardo, questo qui io l'ho sentito tantissimo in partite la radiocronaca, io perlomeno essendo stato sempre un appassionato dello sport li ho seguiti tantissime volte, magari tanti altri non li seguivano nemmeno e cercavano altri canali. Lo so, cose belle, dai, altri tempi, oggi queste cose non se le verificano più. Interessante, tu utilizzi il baracchino per fare le telecronache, no? Già è carino, no? Questa cosa me l'ero anche dimenticata. Sì, appunto, ne hanno fatto tantissime, non ricordo, io seguivo sempre, soprattutto le partite del Castelsardo, seguivo, e non solo quelle del Castelsardo, anche quelle del Sorso seguivo, insomma, questo calcio minore, diciamo, dai, devo dire che era piacevole per me, essendo appassionato di sport, di calcio soprattutto, allora li seguivo molto ma molto volentieri. Poi seguivo anche la notte, allora ricordavo verso quest'ora, là più o meno, verso le 8:30, la sera, eccetera, quando la nave da Porto Torres partiva per Genova, eccetera, c'era allora, in quel periodo lì, mi ricordo, che la gente a bordo della nave telefonava direttamente a casa loro, telefonava, e io avevo uno scanner, ce l'ho ancora, e sentivo le telefonate in diretta, ma quindi evidentemente poi pagavano, forse c'era qualche gettoniera, qualcosa del genere, perché ogni tanto sentivo che scendeva come quando scende un gettone della cabina telefonica, no? E sistematicamente erano in fila uno dietro l'altro, in fila per così dire, e chiamavano quando uno era magari anche in alto mare, che dalla nave stava telefonando a casa loro per farsi sentire della famiglia, eccetera, eccetera. E sai quando avevo tutti venuti ascoltando anche quelle cose lì, con questo ricevitore, questo scanner che avevo io, che che avevo e che ho ancora, capito? Curioso. Ascolta, ma quello scanner lì, che se si può dire, che frequenze, su che frequenze lavora? Frequenze varie, perché parte, se ricordo bene, parte, adesso non mi ricordo se è da 300 o da 500 mega, e arriva fino a 1200-1300 mega. Perché sentivo anche le telefonate allora che facevano, se tu telefonassi per dire a un amico tuo, e io potevo ascoltare la telefonata, anche se non si poteva, io potevo ascoltare la tua telefonata, perché ti ascoltavo sulla frequenza dei 450, mi ricordo bene, e anche sulla frequenza dei 900 MHz, che erano le due frequenze che allora, in quel periodo i telefoni funzionavano. Poi evidentemente le hanno cambiato frequenza e ormai non li senti più, ma io li sentivo e come tutte le sere, anzi ce l'avevo in falegnameria, addirittura lo tenevo tutto il santissimo giorno acceso, e ogni tanto cambiavo di qualche hertz la frequenza, no? Perché magari a te ti potevo sentire per dire a 450, tanto per fare l'esempio, no? E magari c'era un'altra telefonata che poteva essere a 450, appunto 1 o 2 o 3 o 5 o 10, capito? Allora ogni tanto giravo e ascoltavo diverse telefonate. Ho capito. Interessante. Vai, cose curiose, sì. Stiamo parlando della prima telefonia mobile, forse, anche vabbè, quando si utilizzavano i trasferimenti così a onda è corta, dai. Sì, sì, no, no, non solo telefonia mobile, anche telefonia di casa sentivo, anche telefonia di casa sentivo, altro che magari che parlavano forse con la telefonia mobile, questo sì, magari questo sì, però li sentivo, addirittura sentivo quando tu fai una chiamata che squilla il telefono, addirittura sentivo anche lo squillo, che in quel momento magari stavano chiamando una determinata persona, poi guardare pronto, io sentivo. E mi ricordo, era uno scanner che allora in quel tempo costava 749.000 lire, che cosa tanto costava? 749.000 lire questo scanner. Ciao Giù, buonasera. Oh, ciao Marino, buonasera, avanti. Ciao Giù, sono anche a Gianni, buonasera. Con lo scanner ce l'avevo anch'io quasi, quasi una simile l'ho avuto anch'io, ma chi siamo Giù? Abbastanza sensibilità, e io utilizzavo a casa lo stesso, ascoltavo dalla Z, avanti Giulio. Ok, ma sì, beh certo. Poi l'aveva visto, te ricordi di Giovanni Ciclone, allora quei tempi c'era Giovanni Ciclone, io te lo ricordo, ormai non c'è più, è morto da 3-4 anni fa, una cosa del genere. Aveva visto il mio, l'ho visto e ha voluto che glielo ordinassi, infatti glielo ho ordinato io e avevo fatto arrivare il papo in farinelleria da me, avevo fatto arrivare. E me lo ricordo come se fosse oggi, costava allora 749.000 lire, un pacco di soldi era, però diciamo che la curiosità è tu lo sai, tu vuoi dire, ma la curiosità è femmina, no, la curiosità è anche uomo. Vai Marì, c'è Gianni, lo perfetto. Sì, no, mi sto ascoltando Giù. Mi stavo ascoltando, mi stavo un po' sistemando un po' di cose qua. Sì, no, io guardi, quando io abitavo la veloce ancora, anche nel mondo, non so, io ho avuto un interino che mi ha dato molte soddisfazioni, sinceramente, con la parte da me. Poi ho avuto uno scanner tipo militare, però, tipo vecchio di militare, era grandissimo. E ascoltavo tutto quello che ho detto tu poc'anzi, la stessa cosa, le telefonate fra le petroliere e così via. E in effetti facevano con lo scatto che stavo dicendo, tipo gettone. Ok, avanti già. Ehi. Bene. Ascolta Marì, abbassati leggermente il livello del microfono, perché vabbè, forse anche la caratteristica della tua voce è molto, molto presente. Perché sennò alcune cose non si capiscono. Non ti sentendo in manco. Adesso sei sparito proprio del tutto. Una via di mezzo. Guarda, ti sei abbassato proprio, il segnale proprio si è abbassato all'improvviso, sei Santiago 1-2, prima eri fortissimo. No, io già lo sentivo bene a Marino, vabbè, io ho l'altra radio e sei tratto diversamente, tu forse perché lui sta usando un tipo di radio e ti arrivava a fare il tattolo così al baracchino, però io lo sentivo abbastanza bene, chiaro, nonostante che noi siamo anche vicini tra l'altro, per cui va bene così. Sì, ma è così, ma lì io me lo ricordo, allora qui adesso ti potrei raccontare tante storie fra fidanzate, fra innamorate, quando si parlavano al telefono e io sentivo tutto quanto, Gianni, una volta una ti sento queste qua, ascolta, aspetta un attimino, ti chiedo la porta, aspetta un attimino, allora già, fa questo, era il compleanno di lui, era il giorno, no? E questo tipo qua, in un certo momento, ciao, e lo fa, lì, ascolta, stasera prima di venire a prendermi, fatti una bella doccia, è così, è perché, non ti preoccupare, fatti una bella doccia, adesso io non ti spiego tutto il particolare, perché siamo in frequenza eccetera, insomma in poche parole, ha fatto capire benissimo che lì l'avrebbe accontentato, in tutti i modi, non solamente anche diciamo anche di bocca, va, ti dico solo quello, capito Gianni? Stai uscendo male adesso Marigia in radio, rimetti la posta come la prima. Ehi Giù, scusami, mi è caduto il tabacco. Adesso va bene giù. E io ti sento benissimo, non ho un problema di certo. La radio è forte, il segnale è forte, va benissimo per me. Capito, Gianni, cosa ti ho detto? Gianni, sti tenendo di sì, questa sigaretta. Butta via e fumare, fumare. No, ho spostato il pacco del tabacco e mi è caduto un po' di tabacco sul comodino. Butta via. Fate un cannone, una sigaretta, butta via. Eia, eia. Andava, sì, ho sentito giù, ho sentito. Crocco. Guarda già, io ho lavorato in un certo capannone giusto da niente, da là io parlo anni passati. Ho avuto quello scanner queste cose. Ho avuto uno scanner piccolino, con un pacchetto di sigarette. Ma la soddisfazione non ha dato con lo scanner, non ha dato nessuno scanner. Ascoltavo le telefonate, io con il cazzo, da continente, ma c'è da cose che tu neanche te le immagini. Senza, non ti voglio raccontare le cose fuori di Sassari, le cose di Sassari. E ti dico anche un'altra cosa, io lavoravo, facevo un certo lavoro e veniva questa persona qua, c'era un'azienda grossa per la Nieda. Io sentivo un giorno che era al Banco di Sardegna e Piazza Castello, parlando con una persona, poi è venuto dove lavoravo io e gli ho detto, ma tu per caso sei così, sì, e tu non hai fatto sentirli. C'è il mazzo proprio secco, e con la riga era la micca, poco parola, era la micca, non era la moglie, era la micca, avanti giù. Ok, sì, ma lì, tu pensa che c'era uno che io conoscevo bene, adesso non è che ti faccio il nome perché ci mancherebbe altro, e dunque conoscevo benissimo la sua voce, no, eccetera, lo sentivo al telefono quando parlavo, perché lui la sera sistematicamente quando rientrava al lavoro, la prima cosa che faceva telefonava la fidanzata, no? A un certo momento io ascoltavo tutto il suo discorso che faceva, e da lui dopo quando lo vedevo, siccome mi passava davanti, mi passava a fare gli ameria tutti i giorni, e tante volte si fermava a parlare con me, no? E io mi dicevo, ma come ti fai a sapere che cose? Che te le riferisce? A nessuno non me le riferisce, io sì, lo so che tu hai detto queste cose, no, guarda che sono un indovino, non gli dicevo mai che io avevo lo scambio, per mandare teatro, per dire, no? Ma per dire, e l'ho lasciato sempre col dubbio che lui mi ha molto invadito a ascoltare le mie telefonate. Perditi, oh Gianni. Ma lui mi diceva, poi alla fine quando tante volte l'ho portato, mi diceva, beh, e oggi cosa mi dici? Cosa ti dico? Oggi ti dico che alle 7 ma con 4 hai fatto la telefonata ad una certa persona che tu conosci. Dice, ma vuoi ti fai una sabbia di figoli? Una volta stava anche arrabbiando, sai che ti arrabbiati? Io sono un indovino, le dicevo, no, a me non mi risulta. Ma a chi te la riferisco? Dice, la mia fidanzata. Se non la conosco, come fa a riferirmi queste cose? Se io non la conosco nemmeno. A te le immagini già. Posso immaginare la scena, la faccia di un tipo che chiaramente diciamo che aveva le idee un po' confuse, dai. In altri tempi era giù, di la verità, altri tempi. Io mi divertivo sinceramente, mi divertivo. Io ho ascoltato le cose, gente che conosco, e ho ascoltato cose anche che non devo neanche ascoltare, che non posso neanche parlare, per carità, avanti giù. Infatti no, non si possono dire certe cose, mancherebbe altro. No, perché sentite anche le cose sporche, poi c'era quello che telefonava, che al telefono aveva l'abitudine di dire parolacce, ma carità, di dire questi serragoni. Però cosa se ne fregava? Ma per dirti no, loro convinti che erano inascoltati, che erano ascoltati solamente da una persona che era dall'altra parte del telefono, invece no. Vabbè, dai, signori belli, io ve lascio, sono già le 8:30 circa e vado a cenare, dai. Magari mi sta anche aspettando la signora qua. Ci sentiamo. Ciao Gianni, grazie per la chiacchierata, dai, continuiamo magari la prossima volta. Domani magari se coincide. Ciao Maria, ricordati che la sera siamo sempre qua su questo canale. Fate sentire qua, dai, che qui facciamo qualche discorso senza togliere niente. Forse più interessante, senza togliere niente. per carità, perché ognuno fa il quello che vuole, però diciamo che qua mi sembra che ci sia un po' più di soddisfazione, di entusiasmo. Allora, mi prende Mari, dai, mi ascolto molto prima lì e poi chiudo, eh. Avanti Mari. Ok, giù, stai tranquillo già. Ci sentiamo con calma, che c'è volendo contento, devo dire, ma con calma, vai, tranquillamente. Ok, ciao Gio, domani mattina ti saluto l'amico tuo, ti saluto domani mattina, va. Mi ha chiesto anche ieri mattina, mi ha chiesto, se non lo chiamare, se non lo chiamo già lo sento. Ok, già hai capito che sto dicendo, va. Ciao Gio, ben sentito, mi fa piacere, sei in casa, ci vediamo domani, sei in casa, avanti già. Ehi, dai. Ne approfitto anch'io giù, dai, stacco anch'io, vado a mangiarmi un boccone. E niente, ci aggiorniamo nel prossimo. Ciao Marino, ben sentito, ben ascoltato, dai. Alla prossima occasione. Ok, buona serata a tutti quanti e tante cose belle. Ok, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao.